Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Sono un tifoso juventino, però Dzeko, Suarez, ultra trentenni. Con gli ultra trentenni la Champions non si vince, ragazzi. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Rabiot va incontro a Ronaldo sul profondo, Ramsey si cercano e si trovano ancora i due, Ronaldo resiste a Ekdal, cerca un varco per calciare, poi Kulusevski piazza con il sinistro nell'angolino, prima partita con la Juve, primo gol, si apre così la stagione della Juve e l'era Pirlo con il gol di Kulusevski. Let's go. Non è stato facilissimo, però abbiamo fatto 3 punti, abbiamo vinto 3-0 e ho fatto un gol. È meglio che l'ho fatto alla prima partita, così non devo pensarlo più. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Va Kulusevski a giro, in cielo Bonucci e poi attenzione all'errore, la parata, la porta è spalancata per il gol di Bonucci, raddoppia la Juventus. Stasera abbiamo visto delle nuove idee volute dal mister e dallo staff, un nuovo modo di interpretare la partita, tanto entusiasmo nella fase di possesso quanto in quella di non possesso, e credo che sia la grossa differenza nella voglia di aggredire le partite e portare a casa i risultati. Ramsey riceve, serve Ronaldo, esce dalla porta Audero e Ronaldo alla fine il gol lo trova con il diagonale dopo tante occasioni. Get ready for it. Fischio finale, la prima Juve di Pirlo vince 3-0. Non voglio fare un copo incolla di nessun allenatore, ho le mie idee, quindi cercherò di prendere spunto da queste squadre che mi hanno impressionato, ma non solo me, ma hanno impressionato il calcio mondiale. Buon pomeriggio a tutti, oggi Lorenzo Nespoli in redazione al posto di Claudia Schiattone, ancora infortunata, ma qui facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, non so se hai un tweet per me. Ciao Pier. Auguri, auguri, sì, guarda il tweet per la Schiattone che fai il compleanno. Che ne ho centinaia di tweet, ma a questo punto, visto che parliamo ovviamente molto di Juve, già da questa clip, però il tweet lo faccio sul Napoli dell'ultima mezz'ora, che al netto ovviamente della fragilità e dei limiti del Parma, ieri mi è piaciuto molto e mi sembra veramente quel tipo di soluzione tattica così difficile da mantenere, così difficile da trovare da tutto il senso dell'equilibrio, però l'approdo, come dicevo anche ieri, del gioco di Gattuso, cioè è veramente l'obiettivo verso cui tendere, non è facile, però ieri nell'ultima mezz'ora abbiamo visto veramente una squadra con un potenziale offensivo clamoroso e insomma se troverà quella quadra lì Gattuso dirà la sua. Sì, ascoltatori, se volete intervenire 800 24 00 24, WhatsApp vocali 349 238 6666. Massimo Mauro, buongiorno, che piacere, ciao Massimo. Massimo non c'è, ma adesso lo recuperiamo. Gli hai prestato il telefono, tu briccone. No, tra l'altro ieri sera, per chi crede nei segni, per Luigi, nelle rune del campionato, nella notte dei debuttanti, la prima Juventus di Pirlo, senza un Pirlo, l'ha detto, questo è un altro tema di discussione, apre la partita al debuttante Kulusevski, in partite così, quando le apre vuol quasi sempre dire che sei avviato a chiudere, per chi vuole credere nei segni. C'è Massimo Mauro. Aspetta, ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao. Eccolo qui. Ciao, grazie. Bentornato anche a te. Senti, no, stavamo discutendo di segni per chi ci crede. La notte dei debuttanti della Juventus. La Juventus di Pirlo senza un Pirlo. Alla sua prima partita apre la partita Kulusevski, altro deb. Tu ci credi nei segni? Ma sì, è stato divertente vederli giocare. Pen- sbilancerati, liberi da, da sì. come dire, da, da cose da fare per forza. No, io, è stata una partita divertente. Vedere anche un americano giocare molto bene sì. non è male la Juventus. No, ma a me è piaciuto molto Ramsey. Sì. È stato determinante a mio avviso sia per la quantità che per la qualità che ha dato la squadra. Sì. E poi secondo me Bonucci e Chiellini devono giocare a tre. Uh-huh. Ho sentito dire quattro, come era messa era con Danilo che stava accanto a Bonucci, e Bonucci è più coperto e può fare meglio il centrocampista. Certo, senza contare che De Ligt è in bacino di carenaggio e rientrerà tra un po', e senza De Ligt ovviamente non giocherai. D'altra parte Beluigi ha ragione Massimo, anche a me è piaciuto molto Ramsey, che ha giocato in un ruolo in cui l'avevamo visto poco o mai l'anno scorso. È comunque una Juventus più semplice, per arrivare al punto della questione, più simile a se stessa o meglio a quella di Allegri, senza il blocco degli schemi in mano. Sì, anche se poi vabbè, allora partiamo da Ramsey. Ramsey secondo me è, insomma, è forte, non è che lo devo scoprire io. Ramsey è stato per tantissimi anni una colonna assoluta dell'Arsenal, un giocatore che ha anche tanti gol nei piedi, è un centrocampista che secondo me, in assenza di un regista puro, vero, alla Pirlo, può diventare uno di quelli che deve fare la qualità in mezzo, e la può fare e la fa. Il problema di Ramsey lo sappiamo da sempre, è una certa fragilità dal punto di vista fisico che lo porta spesso a infortunarsi, ma quando sta bene è un giocatore che fa la differenza e che la può fare, secondo me. Questo è un giocatore molto importante anche in Italia. Sul discorso eterno di Sarri, Allegri, insomma, mi pare che ormai si sono espressi tutti e abbiamo capito quello che, cioè, lo sa chiunque ormai in Italia, cioè non c'era feeling con Sarri, punto. Ma è chiaro che i risultati cambiano anche la sostanza. Quell'eliminazione con Lione è stata particolarmente cosciente, come si diceva una volta, adesso liberi tutti, ma insomma lo capiamo benissimo, Pirlo è uno di loro, e con loro mi riferisco ovviamente a quella vecchia guardia di giocatori della Juve che ci ha giocato insieme. È un uomo assolutamente in linea, secondo me, di famiglia in questo momento per la Juve. Certo. Questo chiaramente favorisce, no? Favorisce un certo tipo di intesa. Poi se basterà, non lo so, anche perché insomma non sottovalutiamo l'aspetto mercato. No, tra l'altro il 5 ottobre succedono cose. No, ma sicuro, ma tra l'altro poi parliamo con Luca Marchetti dopo la borsa, anche perché la notizia di oggi pare che sia quella di Suarez, Atletico Madrid e Morata in direzione Juventus. Questo si dice oggi, ma poi approfondiamo il discorso. Tornando invece alla filosofia, Massimo, filosofia juventina, tu la conosci particolarmente bene, ha ragione Pierluigi, cioè sembra uno di famiglia, no? È entrato in campo con Andrea Agnelli, Pirlo, è uno che è lì da molto tempo, è molto più tagliato addosso alla Juventus, per non voglio tornare al famoso sarto di Berlusconi, però è molto più adatto alla Juventus. Guarda, è stata la forza della Juve, secondo me, negli anni poi, dove tutti facevano riferimento agli stranieri, no? Andavano a prendere stranieri dappertutto, alla Juve è sempre rimasto il blocco italiano. E l'anno scorso ce n'erano meno, no? Sì. Diciamo che manca Marchisio a questi ragazzi, ma Bonucci, Chiellini, Pirlo, Buffon, Marchisio, che no? Erano l'anima dello spogliatoio. Li ha rimessi insieme secondo me Agnelli, no? Un pochettino con ruoli diversi, però c'è Gigi e Buffon è lì a fare da chioccia a tutti, no? Bonucci e Chiellini ancora in campo e Pirlo in panchina. Io credo che questa sia la vera forza della Juve. Poi il centravanti, insomma, la tattica, Pirlo che gioca senza regista è divertente, no? Sì, Pirlo senza Pirlo, ce lo siamo scritti stamattina, è divertente. E quindi voglio dire, è tutto buono, però la cosa più importante che secondo me fa la Juve è quella di avere il controllo totale di quello che succede nello spogliatoio e non solo. Ma assolutamente, ma l'anno scorso, adesso io non voglio, l'ho fatto mille volte questo ragionamento, l'anno scorso è stato fatto un esperimento con un allenatore bravo, perché io non penso che Sarri improvvisamente sia diventato un brocco perché ha fallito in Champions League, con un allenatore bravo, ma che veniva da una cultura calcistica, diciamo, da una categoria psicologica completamente diversa e addirittura in qualche modo rivale, sì, poteva sì. scattare un feeling clamoroso di quando gli opposti si attraggono, o potevano scattare, ecco, la seconda che hai detto, che sia successa la seconda che hai detto, come direbbe le norme Guzzanti. Esatto, questo è successo, punto. Poi è chiaro, ripeto, i risultati cambiano le cose, perché poi però i risultati sono in qualche modo causa, ma sono anche conseguenza degli umori, quindi sì. Tutto quello che dice Massimo è assolutamente vero, assolutamente corretto. Poi io credo come la vedi la Juventus di Pirlo senza Pirlo, no? Perché anche questa è abbastanza divertente. Certo. Giocherà con due mediani davanti alla difesa, com'è corretto che sia, lasciando davanti le praterie libere al talento, senza troppi intrighi, inghippi o compiti da svolgere. Pier. A me? Sì. C'era tipo, sembrava quei vecchi quiz dove bisognava premere il pulsante. Sì, questo credo che sia il punto di partenza. Credo sia il punto di partenza, ma non è detto che sarà il punto d'arrivo, perché da qui al 5 ottobre, appunto, alcune cose possono cambiare. A me sembra che alcuni elementi della filosofia di Pirlo, in qualche modo, lui li abbia raccontati in conferenza stampa. Abbiamo tutti, Massimo sicuramente più di me, dei rapporti con persone che magari lo conoscono direttamente, che si sono fatte un'idea sull'idea di gioco. Io credo che la filosofia non sia in discussione, cioè questa è una squadra che vuole avere, da un certo punto di vista, la stessa filosofia di Sarri, cioè vuole essere una squadra che non specula, ma che prova a dominare il gioco, perché sa che in Europa, se vuole fare il salto di qualità, deve dominare il gioco, non basta speculare. Poi sul modulo dipenderà molto dagli interpreti, dalle soluzioni, dalle priorità che il mercato tirerà fuori. In questo momento quello è il punto di partenza e mi sembra virtuoso. Poi insomma, io credo che, certo, con tutto l'affetto e il rispetto per la Samp, arriveranno avversari anche più... No, è stata una normale serata in ufficio per la di una normale Juventus, però Massimo, dominare il gioco va bene, ma può arrivarci attraverso la strada del collettivo, del modello, dei tanti passaggi, delle ripartenze, eccetera, o può arrivarci attraverso la strada del talento individuale. E questo discorso vale anche a monte quanto diceva Pierluigi prima per il Napoli, no? Gattuso... ieri abbiamo visto questo ragazzo Osimè che è onestamente entrato e ha spaccato la partita, ma è soprattutto Gattuso ad avere l'idea di una squadra di giocatori molto offensivi. Poi il gioco vediamo. Beh, Gattuso si fa riferimento molto di più alle persone che al gioco, no? Devo dire che tutti, no, pongono l'accento su questa dote importantissima di un gruppo che fa sport, no? Perché se manca l'intensità, se manca la voglia di vincere, se manca la cattiveria, non arrivi da nessuna parte solo con la tecnica, diciamo, no? E il Napoli, voglio dire, è una bellissima squadra, c'è questo centravanti che è entrato e ha fatto la differenza. Perché? Perché ha allungato, perché ha dato più spazio a Insigne e Mertens. Questa è la, diciamo, la novità del gioco di adesso, è che deve essere capace ad allungare la difesa, perché se la difesa sta alta tu non hai possibilità di fare gioco. Se sei uno bravo che sa fare questo, e questo serve anche alla Juventus, perché se posso tornare indietro alla Juve un attimo, certo, e dire che l'esperienza dovrebbe insegnare. Hanno acquistato Higuain per tantissimi soldi e non hanno vinto la Champions. Hanno preso Ronaldo, che ovviamente è il migliore al mondo insieme a Messi, quindi non è una critica ai giocatori, e non hanno vinto la Champions. Cioè, per arrivare a vincere la Champions bisogna imporre il proprio gioco, ma bisogna avere i giocatori per farlo. E non è il centravanti che fa più gol e fa la differenza. Ci vuole un impianto di gioco che viene diciamo messo in piedi dai terzini, dai mediani, dai difensori centrali. Cioè, secondo me la Juve deve comprare i difensori esterni. Il problema della Juve, a mio avviso, è quello lì. Sì. Però... il Napoli invece è una squadra che può lottare, come ha fatto l'anno scorso, per andare in Coppa UEFA, o se fa un grandissimo campionato in Champions League. Sì, però la Juventus non cerca esterni ma centravanti. Ho capito, secondo me cioè Dzeko o un altro non cambia il risultato finale di questa Juventus, secondo me. Uh-huh. È la più indicata a vincere lo scudetto, ma ancora con questo impianto in Europa fa fatica. Perché a mio avviso per imporre il proprio gioco, per giocare palla al piede dalla propria area di rigore e arrivare fino in fondo, c'è bisogno di due esterni bravissimi. Sì. Uno è Bernardeschi, a mio avviso. Se lo convince, io lo dico da due anni, che Bernardeschi, a mio avviso, è un terzino sinistro. Ah. E di là ce ne vuole un altro, perché Cuadrado ogni tanto lo fa bene, ogni tanto no, ce ne vuole un altro insieme a Cuadrado. Sì, tanto ieri quasi per insomma denunciare in maniera silenziosa questo stato di cose, Pirlo ha tirato fuori dal cilindro, Pierluigi, sì, la sorpresa di questo ragazzo, di questo frabotta, sì, quasi a dire guardate che lì siamo un po' scoperti, lì ci serve qualcosa, può essere questo? Sì, però può essere questo, ma può essere anche, secondo me, al di là delle qualità di questo ragazzo, che nella parte finale della stagione aveva già giocato, è chiaro che era diversa la situazione perché il campionato era già vinto, però insomma, come voglio dire, siamo lì per poter giocare, non so dirti se con regolarità, ma insomma sicuramente in qualche circostanza. Sicuramente c'è questo, ma io la vedo anche in positivo, la vedo anche come un segnale di coraggio che Pirlo dà, la vedo anche come un segnale di, tra virgolette, di meritocrazia, anche il ragionamento, secondo me, sul centrocampo. Insomma, mi sembra che Pirlo sia arrivato, ovviamente, da debuttante, però mette sul piatto il suo carisma, il suo coraggio, il fatto che fa le scelte che ritiene più opportune. Da questo punto di vista non ha sudditanza, non ha inesperienza, è inesperto sul piano panchina, non c'è dubbio, ma sicuramente la personalità per fare anche delle scelte sorprendenti. Quindi secondo me c'è un mix di queste due cose, sì, che la Juve debba fare qualcosa lì, non c'è dubbio, insomma, è uno dei tasselli. Oltre che quello che diceva Massimo, cioè un gruppo che si è con lui e intorno a lui probabilmente ricompattato. Ragazzi, un altro tema, 1000 per il calcio sono pochissimi, ma sono già molto meglio di zero. Ovviamente mi riferisco agli spettatori, un piccolo ma necessario, fondamentale, non più rimandabile segnale di vita su questo pianeta, Massimo. Sì, è un nuovo inizio, speriamo presto, no, che si possa aumentare il numero. Secondo me si potrebbe aumentare, perché insomma, una valutazione rispetto all'ambiente dove vanno le persone bisogna farla. Gli stadi sono enormi, ci sono tantissimi cancelli da dove possono entrare le persone, quindi possono anche entrare e uscire tenendo il distanziamento, perché ne possono stare anche 5.000, voglio dire, in uno stadio, non succede il finimondo, no? se ne vanno un po' di più. Altre sono le situazioni da controllare, dove si fanno assembramenti. Sì, a mio avviso, a seconda dell'impianto sportivo, tu puoi dire ce ne stanno 50.000, ne metto dentro 10.000. Sì, ecco, sì, i teatri, sì, ce ne stanno 2.000, ne metto dentro 500. Sì, no? Sì, sì, sì, no, no, no, ma certo, una proporzione rispetto all'impianto. L'importante era ricominciare comunque da qui, anche perché a te, Pier, ne avrà avute a bene le voci da bordo campo, le parole dei relatori, però era divertente, c'era Juric che urlava come un matto, è stato divertente, no, ma le voci da bordo campo sono carine, va bene, però anche basta. Ma noi vorremmo il pubblico, però uso giustamente vorremmo, no, vogliamo, nel senso che il buon senso credo che debba essere utilizzato. La cosa fondamentale, è la priorità assoluta, è la salute delle persone, quindi bisogna riuscire a fare le cose in maniera sana. Quello che è positivo è che, devo dire, insomma, alcuni governatori hanno smosso, insomma, Bonaccini per primo, Zaia al secondo, lo dico uno da una parte e uno dall'altra, così. È stato, secondo me, importante per un motivo fondamentale, perché si deve avere nei confronti del mondo del calcio, l'abbiamo detto mille volte, un atteggiamento laico, rispettoso, sì, certo, cioè di un'economia, di una parte dell'economia del paese e di una passione degli italiani, e anche della vita del paese. Non è la cosa più importante, ovviamente, no, in Italia, fra rischiare, se dovessimo prenderci un rischio che qualcuno si fa del male per andare allo stadio, ma io, certo, sono il primo a dirti assolutamente, certo, no, certo. Però non si deve neanche guardare al mondo del calcio come alla solita fabbrica di miliardari, e come se fosse una cosa utile per definizione. Quindi secondo me, da questo punto di vista, sarà un po' forzata la mano per velocizzare i tempi, è stato fatto secondo me in maniera giusta, e poi ovviamente è giustissimo che il comitato tecnico scientifico, cioè io che sogno gli stadi pieni, però ti dico, sono il primo a dirti che il comitato tecnico scientifico di volta in volta dovrà dirci, e se ci saranno delle situazioni particolari, dei mini lockdown, delle zone dove sarà più difficile, io mi fido ciecamente del comitato tecnico scientifico, non lo discute nessuno, che sia lui ad avere l'ultima parola, no? Questo non lo discute nessuno, però come dici tu, non è certamente la cosa più importante, ma no, è una cosa, certo, una delle cose importanti che compongono un pezzettino di vita di ognuno di noi. Quindi non denigriamo sempre a tutti i costi questa, questo settore, no, questa parte della nostra vita. Quindi poi e per il resto comportiamoci e fidiamoci. Sembra che alla fine, sia prevalente il buon senso, che mi sembra che sia tutto molto bipartisan e che insomma si vada in una direzione sana e corretta. I 1000 fino al 7 ottobre, poi vediamo. Poi ovviamente dipenderà da tutto il resto delle cose. Madrid è di nuovo in lockdown praticamente. Quindi voglio dire, abbiamo delle situazioni che sono molto complicate e che riguardano qualcosa di più importante del calcio. Quindi, per carità, nessuno si deve fare del male, però se la situazione dovesse essere questa, gradualmente, perché no? E può diventare anche un modo per, insomma, non è che deve essere l'obiettivo quello, anzi, però, insomma, voglio dire, la fruizione, a me lo stadio piace all'italiana, no? Quindi con la gente che si abbraccia, eccetera. Però se non c'è quella possibilità lì, io credo che alla fine 1000 volontari li troviamo che vanno allo stadio, anche se devono tenere la mascherina e non possono abbracciare il loro migliore amico. Devono stare lontani, ma sì, non c'è dubbio. A breve di arrivare un giorno in cui ci toglieremo le mascherine perché non saranno più necessarie. Quel giorno purtroppo non è ancora arrivato. No, ma arriverà. Ultimo capitolo che voglio, non posso non affrontare con Massimo Mauro. Indovina qual è? Massimo. No, dimmi. Arbitri. No, no, vabbè, no, ma aspetta, no, lo so, Carlo, lo so. Io sono molto cambiato, Io sono cambiato. Hai rispetto al bar. Ho accettato il bar per quanto riguarda la line technology e il fuorigioco. Hai aggiunto il fuorigioco. Ho aggiunto il fuorigioco, certo. Però comunque dovrebbe essere, e questo ci siamo tutti felici, se sarà così, dovrebbe essere la stagione dello stop ai rigorini. Aspettiamo a festeggiare, lasciamo le bottiglie in frigorifero, ma la prima occhiata è incoraggiante, o no Massimo? Sì, no, guarda, sono intelligenti, non c'è mica... non sono nati nel 1930, sono persone intelligenti che sanno che stava diventando applicare il codice della strada alle partite di calcio. L'autovelox. E non si può fare. Onestamente, no, era diventato inguardabile per chi il rigore lo aveva e per chi il rigore lo subiva. E quindi speriamo che ci sia un po' più di buonsenso. Non ci vuole molto, a mio avviso. Ci vorrebbe, non so, Pirlo a guidare gli arbitri, perché devono essere sereni e tranquilli a poter fare il loro lavoro che sapevano fare benissimo. Questo io ho sempre difeso. Io ho difeso il lavoro dei guardiani e degli arbitri, perché secondo me il VAR ha condizionato enormemente alzare la bandierina e fischiare qualcosa che qualcuno sopra ti dice che invece hai sbagliato. Vabbè, comunque tra 6-7-8 anni cambi idea, arrivi magari a qualche episodio di possibile per no, il però guarda, no, aspetta Pier sì, vai, perché? Perché l'episodio in campo non è mai quello che ti fa vedere la moviola. Ragazzi, voi di questo, però, voi che fate calcio e ne parlate tutti i giorni, vi dovete convincere. Cioè, quello che succede in campo, la mano sulla spalla o sulla pancia di un avversario, non è detto che quell'avversario caschi. Solo l'arbitro lo può decidere. Quindi quando vediamo la moviola e siamo certi che ha ragione, può essere che siamo in difetto. Questo è il punto. Sì. Io sai quante volte ho sentito in TV dire rigore netto. Poi parli con i protagonisti e ti dicono: ma ragazzi, mi sono buttato. Questa è la verità. Poi è chiaro che si fa in un'altra maniera. Vabbè. No, allora sono d'accordissimo. La posizione sugli aspetti metrici, ricordo che la sostenevo tanti anni fa quando questo programma già era iniziato, il VAR era di là da venire. Cioè, quello è proprio assurdo, sarebbe assurdo nel terzo millennio che non, ci fosse la tecnologia sulla con credo light, non ci sia nessuno che non sia d'accordo su questo. Sul resto sono d'accordo con Massimo, sono convinto che su alcuni errori eclatanti il VAR sia assolutamente fondamentale, sono convinto soprattutto che in Italia negli ultimi tempi si sia esagerato, ma insomma quello che dice, ma sull'errore eclatante del VAR, Pier, scusami, ma sull'errore eclatante del VAR che fai? Se tu dici si deve intervenire sull'errore eclatante, ma quando li ha fatti il VAR e li ha fatti, no, ma che cosa fai? Che cosa hai potuto fare sull'errore del VAR? Più. Non deve farli più, però voglio dire, non è che siccome il VAR ha sbagliato, allora il VAR è sbagliato. Ecco, passami questo gioco di parole: non è che siccome ha sbagliato, allora il VAR è sbagliato. Il VAR, secondo me, è uno strumento importante che deve essere usato. Il problema è che, soprattutto negli anni scorsi, secondo me, nell'ultimo anno e mezzo, è stato applicato in maniera molto burocratica, con questo concetto di protocollo che ha finito per complicare le cose invece di semplificarle. E con degli errori anche, secondo me, proprio nell'applicazione. E poi il discorso dice Massimo, secondo me è ineccepibile, cioè la discrezionalità dell'arbitro, il fatto che non è vero che ogni contatto sia un rigore, è indiscutibile. Ne parlavo l'altro giorno con Marelli, io credo che la direzione di Orsato nella finale di Champions League abbia fatto un po' scuola per quanto riguarda il con tutto che io francamente il rigore su Mbappé l'avrei dato, ve lo dico prima di a scanso di equivoci, perché secondo me c'era, però insomma il concetto filosofico è molto semplice, non è che tutti i contatti in area di rigore sono certo. da calcio di rigore, no, ma infatti ma il senso adesso è evitare la clina imbarazzante che si era presa l'anno passato. Vabbè ragazzi, aggiorniamo la seduta, ringrazio come sempre Massimo Mauro, ciao Massimo, ciao, un abbraccio forte, ciao. Ci fermiamo per la borsa e poi sentiamo da Luca Marchetti che sta succedendo tra Juventus e Atletico Madrid e Suarez. Nuovo campionato, vecchie abitudini, stima massima per il non rigore dato alla Juve alla prima di campionato. Il sistema detta le regole. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Benissimo, è iniziato il campionato, la Juve domina, la Juve stravince, Pirlo di qua, Pirlo di là, ma vogliamo parlare del mani di Bonucci o di Chiellini che picchiava come un fabbro oppure no? Pirlo mi ha ricordato i cartelloni, diciamo, che si mettono in studio adesso per creare gli ospiti, aveva persino l'allenatore in seconda che gridava per lui. Io volevo dire una cosa, va bene 1000 persone allo stadio, ma se poi li mettono tutti nella stessa zona, erano tutti vicini ieri sera, cioè mettene 2000 ma un po' separati, erano tutti nella stessa zona. Opinioni dei nostri ascoltatori, 349-238-6666, continuate a mandare WhatsApp vocali. Allora, il mio personalissimo consulente di mercato, sai chi è Pierluigi, no? È Luca Marchetti? No, è Cruciani. Ah! È Cruciani che è il mio personalissimo, non lo sa nessuno, il mio insider, mi ha detto appena prima di entrare in onda, oh guarda che Suarez Atletico Madrid è fatta, eh. Luca Marchetti, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao. Come va? Tutto bene, voi come va? Tutto bene? Meravigliosamente. E alla Juve come va? Alla Juve penso che pure che vada bene, 3-0 ieri, hanno piste più che valide qualora Dzeko davvero non dovesse sbloccarsi e quindi penso che siano con l'animo più sereno rispetto a una settimana fa. Intrecci con l'Atletico Madrid, Suarez, esatto. Il tuo amico Cruciani credo che abbia ragione. Davvero? Suarez va all'Atletico Incredibile. Madrid. Non ne prende una dall'81. Non penso che sia la sua, non penso che sia la sua. Tutto. Io voglio bene a Cruciani, ma credo che abbia detto da qualche parte. Comunque Suarez va all'Atletico, potrebbe andare all'Atletico Madrid e questo significa che libera Morata, che potrebbe andare in prestito alla Juventus. E questo è il piano alternativo che ha la Juve in questo momento per Dzeko. Escluderebbe Dzeko, quindi, ovviamente, Morata. A mio avviso sì, perché la spesa nell'anno sarebbe praticamente la stessa. Dzeko costerebbe circa 14 stipendio e 7 di ammortamento cartellino, quindi fanno 21. Morata costerebbe 10 all'ordo di stipendio, perché approfitterebbe del decreto crescita, prestito di 10 fanno 20. E quindi Piero, è davvero non ho capito perché Dzeko non si è entrato. Bravo, è lì che volevo arrivare. Il controsenso di Dzeko che spolvera la panchina di Verona guardando la Roma senza centravanti. Lo davo praticamente per certo, così come capisco assolutamente. Poi lo sappiamo, nella giornata di sabato c'è stato un rallentamento, quindi non è facile prendere delle decisioni in tempo reale. Probabilmente Dzeko non era mentalizzato, come direbbero gli spagnoli, per giocare per lungo tempo in quella partita, quindi nessuno rimprovera a Fonseca il fatto di non averlo fatto magari per corto cominciare. Tempo, però magari sì, cioè quando poi alla fine ti rendi conto che insomma io il 65esimo me l'aspettavo, lo davo praticamente per scontato, perché è chiaro che il margine di rischio c'è, quando hai un giocatore io non è nessuno, cioè non facciamo gli eroi o gli ipocriti o gli idealisti. È chiaro che se tu hai 16 milioni in arrivo da un giocatore non più giovanissimo come Dzeko, lo stai per vendere, eccetera, è chiaro che la paura anche solo di uno sfinamento c'è. Quindi ripeto, tutto logico, però 20 dalla fine, 25 dalla fine, una partita del genere mi aspettavo che fosse in campo. Sì, c'è ovviamente Roma-Juventus al prossimo giro di valzer. Però altro aspetto che volevo sottoporre al professor Marchetti: Vidal all'Inter è arrivato, visite mediche, molto contento. Messi gli manda messaggio, ci rivediamo presto, non so. Si ha mandato un messaggio. È un parto, però, è Vidal all'Inter. 9 mesi dal concepimento dell'idea. A occhio e croce, Kanté arriva a gennaio, giusto? Oh mai. L'Inter, come tutte le società italiane in questo momento, io credo del mondo, a parte il Chelsea, hanno bisogno di vendere per comprare, e semplicemente per un equilibrio di bilancio. Voi credo che forse meglio di chiunque altro avete letto le notizie economiche anche di oggi. La prospettiva economica non sarà florida per i prossimi mesi. Le società di calcio non possono esimersi dal guardare questo tipo di conti, e l'input che è arrivato dalla Cina, peraltro Zhang lo ha espresso in maniera piuttosto chiara nell'intervista al Corriere della Sera di qualche giorno fa, è che i conti devono tornare, per cui fa via uno che guadagna come Vidal e arriva Vidal. Sì. Altrimenti l'operazione non si può fare, è andato via Godin, è arrivato Vidal. Sì. Potrebbe andare via anche Perisic e Nainggolan. Potrebbero andare via Perisic e Nainggolan se qualcuno soddisfa le richieste economiche dell'Inter. Potrebbe andare via Candreva, visto che lo sta cercando la Sampdoria e anche la Fiorentina, quindi a quel punto ci potrebbe essere lo spazio per Darmian. Per arrivare a Kanté, qui torniamo al piatto forte, ci vogliono delle cessioni importanti per arrivare a quello che ti chiede in questo momento il Chelsea, sempre che poi il Chelsea a una settimana dalla fine del mercato possa fare a meno di Kanté. Le operazioni da oggi in poi, diciamo, avranno anche più il carattere dell'occasione piuttosto che dell'urgenza. Finora chi ha speso ha avuto carattere di urgenza, no? Nel senso che aveva dei ruoli scoperti. Adesso si cerca di cogliere l'opportunità. Sì, l'urgenza con Conte c'è sempre, per Pierluigi, però. Scusa? L'urgenza con Conte c'è sempre. Sì, l'urgenza con Conte c'è sempre, però c'è anche, secondo me, quello che abbiamo fatto mille volte. Cioè, c'è una società che comunque l'ha sostenuto, l'ha assistito. Insomma, io credo che l'Inter sia abbia ampiamente la coscienza a posto da questo punto di vista. Non credo che si possa rimproverare molto all'Inter la batteria di esterni, che sappiamo quanto siano importanti nel gioco di Conte, che gli sarà messa a disposizione, enorme, al punto che oggi l'Inter ha il problema inverso, cioè il problema che ha troppi giocatori e lo sanno tutti, certo, no? L'Inter certo. Deve liberarsi di un po' di giocatori, per cui questo toglie o comunque limita il potere contrattuale nerazzurro. Però l'Inter è una grande squadra, secondo me, in questo momento, come potenzialità, e quindi insomma, detto questo, poi non mi stupirei di vedere qualche altro sfogo da parte di Conte durante la stagione, nemmeno. Quello è il suo carattere, però come sai io sono forse ingenuo, un buonista. No, ma poi a gennaio nasce Kanté interista, tranquillo. Ragazzi, vi saluto anche perché oggi chiudo un po' prima, dato che c'è speciale elettorale. Esatto. Vi saluto con questo messaggio via WhatsApp che recita: a prescindere se ha ragione o torto, 3 puntini, Cruciani non capisce. io parafraso niente. Vabbè, questo messaggio che poi gli giro. Mauro da Mantova, chi è? Non si firma, non si firma. Ciao ragazzi, grazie. David da Roma. Traffico. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. In poltrone sofà, 25% di sconto più un altro 25% per un gran metà prezzo finale su tutta la collezione. Un divano in verapelle con due relax elettrici o uno con puff contenitore e poggiatesta regolabili a soli 25 euro al mese. In più, un divano con comodo letto a 25 centesimi al giorno e si può pagare dal 25 gennaio 2021. Domenica 27 settembre è l'ultimo giorno di festa. Poltrone sofà, autentica qualità italiana. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione del finanziamento. Tutti convocati. What the luck, guys? Allora, sull'argomento calcio ritorno domani, anche perché non capita tutti i giorni di parlare con uno che esattamente 24 ore fa, allora non è casuale, alle 14.45 di ieri si chiudeva la corsa più pazza e meravigliosa del mondo, cioè la 24 ore di Le Mans. C'era un cuore italiano in quella corsa lì, il team Settilar, nella categoria LMP2, la più complicata, combattuta e numerosa. L'anima e pilota di quella del Settilar Racing Team è Roberto Lacorte. Ciao Roberto, grazie. Ciao Carlo, grazie a te per avermi chiamato ora, ancora con le vibrazioni, credo si sentirà nella voce, forse la stanchezza, ma più che altro le vibrazioni per una gara bellissima, strepitosa, unica, per tanti motivi, sia dal punto di vista di ambiente, come si è svolta, ma soprattutto dal punto di vista sportivo per noi che l'abbiamo corsa. L'avete corsa, chiusa per la quarta volta, il che non è banale, e con un grande risultato, perché decimi di categoria è un risultato pazzesco, 14esimo assoluto in una Le Mans che è stata vinta nella LMP1 ancora dalla Toyota, però un grandissimo risultato. Sì, innanzitutto fare 4 su 4, passare 4 volte su 4 sotto la bandiera a scacchi della 24 delle mani è già un successo, perché è una vittoria concluderla per la caratteristica che tutti quanti sanno. Gara massacrante, una gara dove oltre ad avere sempre andare verso le cicche delle performance devi stare attento a tutto, che imprevisti che poi non possono essere controllati, stanchezza, condizioni che cambiano nella pista, e quindi arrivare sotto la bandiera a scacchi è già un successo, qualsiasi sia la posizione. Entrare nei top 10 nella classe LMP2, che è la vera categoria, la vera classe, la 24 delle Mans, 24 macchine guidate da equipaggi favolosi, piloti Formula 1, piloti che sono nella storia dell'endurance, del motorsport. E, ecco, a fare un risultato così in quella categoria dà soddisfazione. Senti, l'edizione più strana, più storica, speriamo anche irripetibile, raccontami un paio di emozioni tue. Le emozioni, dunque, di questa 24 delle mamme è rimasto il secondo mio turno di guida come emozioni di il secondo turno di guida, che dove ho visto il tramonto inoltrato e la notte, la formazione della notte, e lì ci sono un po' di combinazioni, la pista comincia ad essere abbastanza gommata e l'aria è un po' più fresca, quindi i cavalli del motore aumentano, il grip aumenta e lì cominciano a venire fuori, a profilarsi la struttura della classifica delle 24 ore, eccetto gli imprevisti, cioè si vede quelli che spingono e stanno nel gruppo dei tenigiri e chi invece per vari motivi si perde la classifica nelle retrovie. Lì stavo vedendo che eravamo in gioco bene e li ho spinto, come si dice in gergo, come una bestia. Ho spinto nella notte, ho fatto una serie di giri con dei tempi, anche con il traffico, insomma, e lì sono sceso alla macchina ero proprio soddisfatto, no? Mi ricordo l'ho data ad Andrea, l'ho data, sì, Andrea Bilicchi, con tanto, cioè gli ho consegnato la macchina che stava bene e con una pressione, con un ritmo bello alto, e quindi mi sentivo bene tra loro, fra due campioni come Giorgio Sennaciotto e Andrea Bilicchi. Sono due piloti straordinari che hanno fatto vedere quanto si va forte, hanno fatto dei turni con dei tempi pazzeschi, proprio insieme alle ore guidate da piloti di Formula 1. Giorgio ha fatto una partenza strepitosa, davanti aveva Juan Pablo Montoya, dopo due curve l'ha passato, è andato via, cioè, quindi sono cose. L'altra cosa che mi ha fatto mi ha dato tanta emozione è la resilienza di questa, cioè è una gara, è un evento talmente potente e che tutti si stringono intorno a questo evento affinché resistano nonostante tutto a quello che sta succedendo a livello globale, riguardante quindi la pandemia. E gli organizzatori sono stati veramente bravi, hanno creato una vera e propria bolla dove potevamo, con le dovute attenzioni, nonostante che tutti fossero già stati verificati, e l'evento ha resistito dove nei suoi aspetti sportivi è stato più forte rispetto alle altre edizioni. Sportivamente questa 24 Le Mans è stata strepitosa, ha avuto quindi due singolarità: la bellezza, la validità sportiva e la singolarità del fatto che abbiamo corso senza le oltre 600.000 persone che visitano la 24 Le Mans nella settimana, rendendolo un evento mondiale incredibile. Io ti ringrazio per molti motivi, compreso questi racconti, Roberto. Ci sentiamo presto per altre storie di velocità, non necessariamente in pista. Un abbraccio, grazie Roberto. Grazie mille Carlo, ciao. Grazie Roberto Lacorte, e chiudiamo qui lasciando spazio agli speciali elettorali. Grazie a Lorenzo Nespoli e a Gianmarco Ferronato, domani alle 2 tutti convocati, ciao. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.